Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. In primo piano oggi il futuro dell'autotrasporto e della logistica tra combustibili ecocompatibili, tecnologia e regole, e poi spazio al protocollo firmato dai governatori di Lombardia, Piemonte e Liguria per la creazione di una macro regione logistica in grado di competere con i distretti del Nord Europa. Autotrasporto 4.0, cioè il futuro del trasporto delle merci su strada. Di questo si è parlato a Milano nel corso del convegno organizzato da Decra Italia in collaborazione con la LIUC Università Cattaneo e il Freight Leaders Council con il patrocinio dell'Albo degli Autotrasportatori. Un futuro che inevitabilmente si incrocia con la questione ambientale, di cui la necessità di ridurre le emissioni facendo ricorso a carburanti, diciamo così, il più possibile sostenibili. La strada è ancora lunga e un po' confusa, ma già si intravedono soluzioni praticabili, anche perché c'è ben poco tempo da perdere. Per capire un po' a che punto si è arrivati, abbiamo intervistato Antonio Malvestio, presidente del Freight Leaders Council. Parlando di biocarburanti per l'autotrasporto, parliamo principalmente di quelli che si chiamano biodiesel, quindi carburanti adatti alla trazione di mezzi merci con origine biologica. Ci sono molti brevetti, continuamente persone inventano nuovi modi per fare questo tipo di carburanti. In realtà questo genera confusione, perché alla fine non si sa esattamente di cosa si parla. Una cosa però è sicuro, perché ormai tutti i test su biocarburanti hanno dimostrato la non compatibilità piena con i motori attuali. Se vogliamo sperare in una rapida conversione del mondo del trasporto verso i biocarburanti, bisogna trovare il modo di poterli utilizzare tranquillamente con i mezzi normali, con gli attuali motori. Quindi, mentre la scienza continuerà a studiare, quindi i ricercatori investiranno per trovare nuovi modi per fare carburanti bio, bisogna accelerare la conversione e quindi andare in un'altra direzione, che è quella di carburanti bio raffinati al punto da poter essere utilizzati sui carburanti normali. E ha parlato di ossessione, nel senso che non c'è molto tempo da perdere. Sicuramente non c'è molto tempo da perdere, anche perché la quantità di ossigeno a disposizione è limitata e ci sono paesi come la Cina, l'India, dove l'industrializzazione è ancora in una fase iniziale e dove il consumo di combustibili fossili è automaticamente molto grande. Quindi il mondo occidentale deve assolutamente accelerare la conversione verso combustibili bio e lanciare l'esca in modo che tutto il mondo converga rapidamente per questo. Bisogna fare due cammini paralleli: utilizzare i combustibili fossili disponibili però a limitato impatto ambientale, quindi il metano e l'LNG per la trazione, e contemporaneamente accelerare la conversione verso combustibili bio. Ecco perché ho indicato l'HVO come il più promettente. Abbiamo già una definizione di un biocarburante a cui è stata eliminata la frazione che crea problemi di compatibilità, e quindi con la bacchetta magica sarebbe possibile già da oggi partire verso la conversione e mettere sul mercato un combustibile compatibile con i motori attuali. Ma perché non si fa? Perché la lobby del petrolio ovviamente esiste, non può perdere il business, e la conversione ha bisogno di investimenti molto importanti. Non so indicare la ricetta, però è sicuro che mutare gli equilibri attuali è molto difficile. Se da una parte il futuro della logistica e dell'autotrasporto passa da carburanti con minore impatto ambientale, dall'altra non può che seguire la strada dell'affermazione delle regole attraverso le quali il settore e quindi il mercato ricavi nuova linfa e nuovi modelli di sviluppo. In questo contesto si è inserito il portale della regolarità delle imprese, operativo ormai da qualche mese. Di tutto questo abbiamo parlato con Silvio Faggi, vicepresidente dell'Albo degli Autotrasportatori, al quale è stato chiesto anche dell'emergenza in divenire al Brenner con l'inasprimento dei controlli annunciato dall'Austria. Io credo che sia da voltare pagina in maniera definitiva e senza tanti dubbi o tanti ripensamenti. Il tempo dei trasporti fatti al massimo ribasso, delle furbizie, il tempo delle calamite, come lo chiamo io a volte, che i trasportatori, tanti trasportatori mettono per violare le norme sui tempi di guida e di riposo, bisogna che lo lasciamo alle spalle. Dobbiamo tornare a fare impresa seriamente, dobbiamo tornare a guadagnare e dobbiamo tornare a rendere questo settore un settore appetibile, dove la gente abbia voglia ancora di investire e di scommetterci. L'esperienza del database, possiamo fare un punto, un bilancio? Il database sta andando molto bene, nel senso che siamo oltre le 10.000 interrogazioni nel giro di 2 mesi sostanzialmente. Tenga presente che tantissimi committenti, il nostro paese è caratterizzato da tante imprese di produzione medio-piccole, non conoscono questa normativa e questo è un problema, perché poi i rischi sono tutti a carico dell'impresa che non fa quello che la norma prevede che venga fatto. Ci saranno anche delle novità a breve sull'accessibilità? Sì, trasferiremo tutto all'interno del nuovo portale dell'albo, che è stato già realizzato, è stato già collaudato. Stiamo definendo alcuni accorgimenti tecnici per renderlo il più semplice e il meglio fruibile possibile, in modo che non ci siano, fra virgolette, scuse per dire ma io non l'ho fatto la verifica perché non sono riuscito ad entrare, non sono riuscito a registrarmi, non sono riuscito a fare l'interrogazione. Parliamo del Brennero. Se chiude il Brennero è un disastro non solo per gli autotrasportatori, che dovrebbero comunque allungare di tanto i loro percorsi per il centro Europa, per quelli che sono i mercati, ma sarebbe un disastro per la nostra industria che esporta. Anche solo l'inasprimento dei controlli significherebbe un aggravio notevole. Qualcuno ha fatto il conto, ma è un conto semplice da fare. Un'ora di fermo macchina costa 60 euro, secondo me ne costa qualcuno in più. Comunque, prendiamo per buono i 60 euro, se cominciamo a tenere ferma una macchina al Brennero 2, 3, 4 ore perché deve subire dei controlli, lascio immaginare a chi ci ascolta cosa può significare proprio in termini reali di maggior costo. Per il momento non è ancora chiaro quando scatterà il nuovo regime dei controlli da parte di Vienna. Il governo austriaco sarebbe pronto anche a schierare l'esercito. Nei giorni scorsi, come abbiamo sentito, si sono susseguiti incontri, prese di posizione e appelli per scongiurare un passo indietro nella storia con ricadute su vari fronti. Una delle ultime stime è dell'osservatorio di Conftrasporto, secondo il quale il ripristino dei controlli alle frontiere con l'Austria mette a rischio 140 miliardi di euro l'anno di interscambio commerciale del nostro paese. Probabilmente le decisioni operative di Vienna dipenderanno dal flusso effettivo dei migranti che dal sud si dirigeranno verso il centro e il nord Europa. Al momento è molto scarso, ma sin dai prossimi giorni è prevista una intensificazione degli sbarchi favoriti da condizioni meteo in miglioramento. Per seguire quello che accade e accadrà al Brennero, su Twitter Radio 24 ha appena lanciato l'hashtag Brennero Merci, attraverso il quale raccogliere segnalazioni, commenti e notizie sull'evoluzione della situazione al valico. E ora parliamo del nord-ovest. Nella seconda metà dell'Ottocento prese forma il cosiddetto triangolo industriale Milano-Torino-Genova, un distretto produttivo, all'epoca non si chiamava così, che segnò e trascinò lo sviluppo dell'economia italiana. Da allora gli scenari si sono via via trasformati, ma tra i tre poli non è mai venuta meno la naturale interdipendenza logistica e infrastrutturale. Per coordinarla attraverso una regia comune, nel fine settimana a Novara i governatori di Lombardia, Piemonte e Liguria, Maroni, Chiamparino e Toti, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che potrebbe diventare un'esperienza pilota, come ha sottolineato lo stesso ministro Graziano Del Rio. Cioè tre regioni che fanno sistema per diventare una piattaforma logistica in grado di competere con i distretti del nord Europa. Ascoltiamo il presidente della regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore ai trasporti della regione Piemonte Francesco Balocco. I porti della Liguria sono porti efficaci ed efficienti e si stanno attrezzando per quella che è la logistica del futuro, per accogliere le mega navi che sempre più spesso sono il vettore delle merci che arrivano in Europa. Dopodiché, dopo aver scaricato nei porti di Savona, di Genova, di Spezia, le merci occorre portarle verso i grandi mercati o verso le imprese ricche della Lombardia, del Piemonte e possibilmente conquistare aree di mercato a nord delle Alpi. La logistica non è più un pezzetto collaterale al sistema produttivo manifatturiero, ma sta addirittura diventando il centro del sistema, che ingloba al suo interno la produzione. L'obiettivo più concreto che abbiamo è il definire il rafforzamento infrastrutturale. E mentre a Novara i rappresentanti delle tre regioni si apprestavano ad illustrare questo protocollo d'intesa, al porto di Genova attraccava la porta container Arzagoun, cioè la prima nave battente bandiera iraniana ad approdare in uno scalo italiano dopo la fine delle sanzioni. La linea regolare da Bandar Abbas era stata interrotta nel 2010, ora è ripresa e dentro l'anno lo scalo sarà settimanale. Questa puntata di Hashtag Autotrasporti termina qui. Grazie per la cortese attenzione. Da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.